C'è chi vive di malinconia, c'è chi muore per la libertà. Io che muoio di democrazia, che più o meno ha la mia stessa età. Non ho mai rubato a casa mia, non ho fatto mai il parlamentare, non ho mai imparato a far la spia, solo a far canzoni e a strimpellare, bling bling. Ho giocato a fare l'estremista, ma all'estremo c'ero solo io. Per 100 anni sono sceso in pista e alla fine ho visto solo Dio. E l'ho visto senza Maserati, senza immunità, senza mutande, senza ipocrisie da deputati. E ho pensato allora che Dio è grande. E l'ho visto il Pinto Beatles e poi al cinema con Totò. E l'ho visto fuori dalla chiesa tra la gente che non ce la fa. E l'ho visto grandi occhi umani e diceva che le bombe no. Sotto un ponte combinato male e l'ho visto a pezzi a letto all'ospedale. C'è chi vive in pace alle Maldive, spanculando carichi pendenti, chi nasconde 2 sepolte vive in un club in via dei 420. C'è chi è ricco di rimborso spese, c'è chi fa la guerra dei bottoni, chi si strugge dalla nostalgia e si fa ciulare dai padroni e ci gode. Ho giocato a fare il musicista, ma non sopportavo tanto il fa. Ho vissuto all'ombra della fica e ho sofferto per l'umidità. Così un giorno ai monti, un giorno al mare, e con tanta voglia di cantare, me ne stavo nel giardino mio. Fu così che a un tratto vidi Dio. E l'ho visto il Quinto Beatles e poi il cinema con Totò. E l'ho visto fuori dalla chiesa tra la gente che non ce la fa. E l'ho visto grandi occhi umani e diceva che le bombe no. Non vestiva come un marziano, con l'anello al dito e in testa un cappello strano.